Ad alta voce, Elia Shilton legge Fame di Knut Hamsun, traduzione di Ervinio Pocar. Che notte avevo passato? Come mai, pensavo meravigliato, nessuno aveva udito il rumore? Già ero nel reparto riservato, in alto, al di sopra degli altri detenuti, un ministro senza tetto, per così dire. Ero di buon umore e, fissando gli occhi sui vetri che diventavano a mano più chiari, mi divertivo a darmi arie da ministro. Mi chiamavo von Tangen e parlavo in stile burocratico. Avevo smesso di fantasticare. Non ero più tanto nervoso. Non avessi commesso la deplorevole spensieratezza di lasciare a casa il portafoglio. Potevo intanto avere l'onore di condurre a letto il signor ministro? Con la massima serietà, tra molte cerimonie, mi avvicinai al giaciglio e mi coricai. Ormai era abbastanza chiaro per distinguere i contorni della cella. Notai alla porta l'enorme maniglia e fu una distrazione. L'oscurità monotona e impenetrabile che mi aveva tanto irritato perché non potevo vedere neanche me stesso era ormai rotta. Il mio sangue si calmò. E presto sentii che gli occhi mi si chiudevano. Due colpi bruschi alla porta mi svegliarono. Balzai tosto dal letto, mi vestii in fretta. I miei abiti erano ancora bagnati dal giorno prima. «Presentatevi all'ufficiale di turno», mi disse la guardia. «Ai, nuove formalità», pensai, impaurito. Di sotto entrai in uno stanzone dove erano raccolte 30 o 40 persone, tutte senza tetto. Venivano chiamate per nome l'una dopo l'altra e ciascuna riceveva un tagliando per il pasto. A ogni chiamata l'ufficiale domandava a una guardia: «Ha avuto il tagliando, mi raccomando, pare che tutti costoro abbiano bisogno di un pasto». Io guardavo i tagliandi con la speranza di riceverne uno. «Andreas Tangen, giornalista». Mi avanzai e feci un inchino. «Caro, come mai anche voi da queste parti?» Gli spiegai la situazione, raccontai la storia della sera prima, mentii senza batter ciglio, con convinzione. Purtroppo ero rimasto fuori a lungo al caffè, avevo perduto la chiave di casa. Già, disse sorridendo, cose che capitano, avete dormito bene almeno? Come un ministro, risposi, come un ministro, molto lieto, esclamò lui alzandosi. Buongiorno. E me ne andai. Un tagliando anche per me. Non mangio da 3 giorni e 3 notti, un pezzo di pane. Ma nessuno mi diede il tagliando e io non ebbi il coraggio di chiederlo. Avrei destato sospetti, mi avrebbero chiesto i documenti e si sarebbe saputo chi ero in realtà. Mi avrebbero arrestato per aver dato le generalità false. A testa alta, con un'aria da milionario, le mani in tasca, lasciai lentamente il municipio. Il sole era già alto, erano le 10 e il traffico nello Jungstor era già molto intenso. Dove potevo andare? Misi la mano in tasca per sentire se avevo il manoscritto. Alle 11 intendevo andare dal redattore. Mi appoggiai un po' alla balaustrata del municipio e stetti a osservare il traffico. Il mio vestito incominciò ad asciugare. La fame si fece sentire nuovamente rodendomi lo stomaco, uggiolando e pungendomi come con spilli sottili. Faceva male, ma non avevo proprio nessun amico, nessun conoscente a cui rivolgermi. Pensa e ripensa, cercai un uomo che potesse darmi 10 centesimi, ma non trovai nessuno. Che magnifica giornata! Quanto sole, quanta luce intorno a me! Il cielo scorreva come un mare luminoso sopra le alture di Lir. Senza pensare, arrivai a casa. Nel tormento della fame avevo raccolto per la strada un pezzetto di legno e mi ero messo a masticarlo. Mi fece bene, come mai non ci avevo pensato prima. Il portone era aperto. Come al solito lo stagliere mi diede il buongiorno. «Bel tempo oggi!» disse. «Sì!» replicai. Non seppi dire altro. E se l'avessi pregato di prestarmi una corona? Se avesse potuto l'avrebbe fatto volentieri. E poi una volta avevo scritto per lui una lettera. Appariva impacciato, come volesse dire qualche cosa, e disse «Bel tempo, sì! Oggi devo pagare la padrona di casa. Vi dispiacerebbe prestarmi 5 corone? Sapete, soltanto per un paio di giorni. Già un'altra volta mi avete fatto un favore». «Purtroppo non posso, Jens», risposi. «Adesso no, forse più tardi, forse nel pomeriggio». E salii faticosamente nella mia stanza. Là mi gettai sul letto ridendo. Che fortuna! Mi aveva prevenuto, il mio onore era salvo. 5 corone, Dio benedetto! Avrebbe potuto chiedermi anche 5 azioni della cucina popolare o un maniero ad Acker. 5 corone! Mi sbellicavo da ridere. Non ero un uomo in gamba. 5 corone! Avevo bussato proprio all'indirizzo giusto. E la mia allegria cresceva e la lasciavo sfogare. Che odore di cibi qua dentro, un vero e proprio odore di cotolette dopo la colazione, aria, e spalancai la finestra perché uscisse quella puzza insopportabile, cameriere una bistecca, e volgendomi verso la tavola, quella misera tavola che quando scrivevo dovevo reggere con le ginocchia, feci un profondo inchino e domandai, scusate, desiderate un bicchiere di vino? No? Io sono Tangen, il ministro Tangen. Ieri sera, purtroppo, sono rimasto fuori fino a tardi. La chiave di casa. E i miei pensieri fuggirono di nuovo a briglia sciolta. Capivo benissimo che dicevo cose incoerenti, ma non pronunciavo una parola che non capissi chiaramente. Ecco, dicevo tra me, adesso faccio di nuovo chiacchiere sconnesse. Ma non ne avevo colpa. Mi pareva di essere desto e di parlare nel sonno. Avevo la testa leggera, senza dolori, senza oppressioni, e dentro di me si apriva un cielo senza nubi e veleggiavo senza opporre resistenza. Avanti, sì, venga pure avanti. Come vede, qui tutto è tempestato di rubini. I laiali. Quel divano soffice di seta rossa. E com'è agitato il respiro di lei. Baciami, cara, ancora. Le tue braccia sono come l'ambra. Le tue labbra ardono. Cameriere, e la bistecca. Dalla finestra entrava il sole. Nella stalla udivo il cavallo frangere l'avena e io masticavo il pezzetto di legno, soddisfatto e contento come una Pasqua. Continuamente tastavo il manoscritto, ma non ci pensavo affatto. L'istinto mi diceva che c'era ancora. Il mio sangue me lo ricordava. Lo presi dalla tasca e vidi che era bagnato. Perciò lo stesi al sole. Poi mi misi a passeggiare per la stanza. Che scena sconsolata. Ritagli di latta sul pavimento, non una sedia, non un chiodo sui muri nudi. Tutto era stato impegnato e trasformato in cibo. Unico mio possesso erano quei pochi fogli di carta sulla tavola coperta di polvere. La vecchia coperta verde sul letto me l'aveva prestata Hans Pauli pochi mesi prima. Giusto, Hans Pauli, e schioccai le dita. Hans Pauli Pettersen doveva aiutarmi, ne ricordavo l'indirizzo. Come avevo potuto dimenticare Hans Pauli? Ma certamente si sarebbe offeso perché non mi ero rivolto subito a lui. Presi il cappello, ripiegai il manoscritto e scesi le scale di corsa. «Ehi, Jens!» gridai nella stalla. «Sono quasi sicuro di potervi prestare qualche cosa prima di sera». Giunto al municipio, vidi che erano le 11 passate. Decisi quindi di salire subito in redazione. Davanti alla porta mi fermai a controllare se il manoscritto era ben numerato e ordinato. Lo lisciai alla meglio, me lo rimisi in tasca e bussai. Mentre entravo sentivo che il cuore mi pulsava in gola. C'era Forbici, ma non mi vide. Chiesi timidamente del redattore capo. Nessuna risposta. Frugava col suo lungo strumento tagliente tra giornali di provincia. Ripetei la domanda e mi avvicinai. «Il redattore capo non è ancora venuto», disse finalmente, senza alzare gli occhi. «Quando verrà?» «Non saprei, non so davvero». «Ma fino a che ora è aperta la redazione?» Non ricevetti nessuna risposta, dunque potevo andarmene. In tutto quel tempo il buon uomo non mi aveva degnato di uno sguardo, mi aveva riconosciuto dalla voce. Qui dunque, pensavo, hanno di me un'opinione così cattiva che non credono neanche necessario rispondere. Lo facevano per ordine del redattore capo? È vero che dopo la pubblicazione del mio famoso articolo da 10 corone lo avevo perseguitato con i miei scritti, lo avevo aggredito quasi ogni giorno con roba inservibile che era costretto a leggere e a restituirmi, e ora voleva farla finita e certo aveva preso le sue misure. Me ne andai nel quartiere di Humansby. Hans Pauli Pettersen era uno studente venuto dalla campagna e viveva in una soffitta a un quinto piano. Dunque era un povero diavolo, ma se avesse posseduto una corona non si sarebbe fatto pregare, me l'avrebbe data, ne ero sicuro, come se l'avessi già in tasca. E l'aspettavo con grande gioia quella corona. L'avrei avuta senza dubbio. Trovai la porta chiusa e dovetti suonare. «Devo parlare con lo studente Pettersen», dissi, e feci per entrare. «So la stanza». «Lo studente Pettersen», ripeté la ragazza, «quello che abitava all'ultimo piano, ha traslocato». Non sapeva dove, ma egli l'aveva pregata di mandargli la corrispondenza da Hermansen nella Tolbutgate e disse il numero. Andai pieno di fede e di speranze nella Tolbutgate per chiedere l'indirizzo di Hans Pauli. Era l'ultima risorsa e bisognava sfruttarla. Durante il tragitto passai davanti a una casa in costruzione. C'erano 2 falegnami che piallavano. Presi un paio di trucioli freschi, ne misi uno in bocca e ficcai l'altro in tasca per più tardi e proseguii torcendomi dalla fame. Nella vetrina di un fornaio avevo visto un pane da 10 centesimi, straordinariamente grande, il pane più grande che si potesse avere a quel prezzo. Vengo a chiedere l'indirizzo dello studente Pettersen. Bert Ankers Gate numero 10 all'ultimo piano. Andavo da lui, allora potevo anche fare il piacere di recapitargli un paio di lettere che erano arrivate. Tornai indietro e rifeci quasi la stessa strada di prima. Rividi i 2 falegnami. Ora tenevano il pentolino fra le ginocchia e mangiavano la buona minestra calda della cucina popolare. Passai davanti al fornaio, vidi il pane al posto di prima e infine, morto di stanchezza, raggiunsi la Bernd Ankerskate. La porta era aperta, sicché mi arrampicai faticosamente per le scale fino al solaio. Presi le lettere per mettere subito Hans Pauli di buon umore. Certamente non mi avrebbe rifiutato il favore quando gli avessi spiegato le circostanze. Hans Pauli aveva un cuore d'oro, io l'avevo sempre detto. Attaccato alla porta trovai il suo biglietto di visita. H.P. Pettersen, stud di teologia, ritornato al paese. Mi sedetti sul pavimento, stanco, affranto da tante delusioni, e dissi più volte come inebetito: ritornato al paese, ritornato al paese. Poi tacqui senza aggiungere altro. I miei occhi non avevano lacrime, la mia mente non aveva pensieri né sentimenti. Con gli occhi spalancati fissavo le lettere senza prendere alcuna risoluzione. Passarono così 10 minuti, forse 20, forse di più. Me ne stavo là, immobile, quasi dormivo. A un tratto udii un rumore di passi sulle scale. Mi alzai e dissi: cercavo lo studente Pettersen, ho qui 2 lettere per lui. È partito, è andato al suo paese, rispose la donna. Ma ritorna dopo le vacanze, può dare a me le lettere, se crede. Benissimo, grazie, così le riceve appena ritorna. Potrebbe esserci qualche cosa di importante. Buongiorno. Quando mi trovai fuori, mi fermai in mezzo alla strada e stringendo i pugni dissi forte: caro Padre Eterno, ti voglio dire una cosa, sei un poco di buono. E mordendomi le labbra tesi le braccia contro le nuvole. Sì, il diavolo mi porti, un poco di buono. Feci alcuni passi e mi fermai di nuovo. Cambiando improvvisamente tutto il mio atteggiamento, giunsi le mani, reclinai la testa e mi domandai con voce melliflua e ipocrita: ma figlio mio, ti sei mai rivolto a lui? No, no, non così. Con l'L maiuscola, dissi, con un L alta quanto il Duomo. Ripeti dunque. Ti sei mai rivolto a lui, figlio mio? E piegando la testa risposi con voce rattristata: no, no, nemmeno così. Vedi, sciocco, non sei capace di fingere. Sì, devi dire, sì, ho invocato il mio Dio. E nel pronunciare le tue parole devi assumere il tono più piagnucoloso che tu abbia mai sentito. Ripeti dunque. Sì, ma già meglio. Ma devi sospirare, sospirare come un cavallo malato di petto. Via, via! Continuai per la mia strada, impartendomi lezioni e pestando forte i piedi con impazienza quando non stavo attento, dandomi della testa di cavolo, mentre tutti i passanti si voltavano a guardarmi, meravigliati, scotendo il capo. Continuavo a masticare il trucciolo e mi trascinavo per le strade meglio che potevo. E più presto di quanto immaginassi, mi trovai nel piazzale della stazione. L'orologio della chiesa del Redentore faceva 1:30. Mi fermai un momento a riflettere. Il sudore mi scorreva pigramente dalla fronte e mi andava negli occhi. «Vuoi che facciamo un giretto nel porto?» dissi tra me. «Ma soltanto se hai tempo!» E mi inchinai davanti a me stesso, scendendo poi verso il molo. Le navi erano al largo e il fiordo si cullava al sole. Movimento dappertutto, sirene urlanti, facchini che portavano casse e il canto allegro degli stivatori sulle chiatte. Vicino a me c'era una venditrice di dolci col naso bruno che pendeva sulla merce. Il suo banchetto era sfacciatamente coperto di leccornie. Disgustato volsi lo sguardo. Quel lezzo dolciastro appestava tutto il molo. Che porcheria, aprite le finestre. Mi rivolsi a un signore che era seduto accanto a me e gli feci notare con insistenza il numero sproporzionato di venditrici di dolci, vero? Doveva pure ammettere che... Ma il brav'uomo fiutò odor di polvere e non mi lasciò neanche finire. Si alzò e andò via. Io feci altrettanto e gli andai dietro risoluto a dimostrargli che aveva torto, anche in considerazione delle condizioni igieniche, gli dissi toccandogli una spalla. Scusate tanto, disse guardandomi impaurito, io sono forestiero e non ho un'idea delle condizioni sanitarie locali. Ah, allora è un'altra cosa. Ma non potevo essergli utile in qualche modo, mostrargli la città? Per me sarebbe stato un piacere e a lui non costava nulla. Ma quello non vedeva l'ora di sbarazzarsi di me e attraversò la strada verso l'altro marciapiede. Io tornai indietro e mi sedetti sulla panchina. Ero molto inquieto e l'organetto che suonava poco distante mi rendeva ancor più insofferente. Era una musica metallica, ritmata, non so che cosa di Weber, e una ragazzina vi accompagnava una canzone malinconica. La cantilena lamentosa dell'organetto mi entrava nel sangue, mi dava i nervi, li faceva vibrare tutti insieme, e dopo un po' mi appoggiai alla spalliera accompagnando anch'io quel canto a bocca chiusa. A che punto si arriva quando si ha fame? Mi sentii leggero, come dissolto in quelle note, e percepivo chiaramente che scivolavo via librandomi sopra i monti, danzando sopra zone di luce. Un centesimo, disse la piccola dell'organetto, tendendo il piattino di latta, un centesimo solo. Subito, dissi istintivamente, e alzatomi in piedi mi frugai nelle tasche. La piccola credette che la pigliassi in giro e si allontanò svelta senza dire una parola. Quella muta indulgenza era troppo. Era troppo per me. Se mi avesse insultato, mi avrebbe fatto un piacere. Provai un dolore acuto e la richiamai. Sai, oggi non ho un centesimo, ma non ti dimenticherò. Forse domani. Come ti chiami? Bel nome. Stai sicura che mi ricorderò di te? A domani, dunque. Ma mi accorsi che non mi credeva e piansi dalla disperazione perché quella ragazzaccia non voleva credermi. La chiamai un'altra volta e mi sbottonai la giacca per darle il panciotto. Voglio darti qualche cosa, aspetta un momento. Ma non avevo il panciotto, come mi era venuto in mente di cercarlo. Non lo possedevo già da più settimane. Che cosa succedeva nella mia mente? La fanciulla, che pareva spaventata, non aspettò oltre e corse a raggiungere l'organetto. Così dovetti lasciarla andare. Intorno a noi si erano raccolti alcuni curiosi che ridevano forte. Una guardia si infilò nel crocchio domandando che cosa fosse successo. Niente, risposi, assolutamente niente. Volevo offrire a quella piccola il mio panciotto per suo padre. Ma no, non c'è niente da ridere. Potrei anche andare a casa e indossarne un altro. Niente schiamazzi nella strada, esclamò la guardia. Avanti, via! E mi diede uno spintone. Queste carte sono roba vostra, mi gridò dietro. Oh, diavolo, il mio articolo per il giornale, sono documenti importanti. Come ho potuto essere così sbadato? Riebbi il manoscritto, mi assicurai che ci fossero tutti i fogli e senza voltarmi indietro, corsi di filato in redazione. L'orologio del Redentore segnava le 4. Elia Shilton ha letto Fame di Knut Hamsun, traduzione di Ervinio Pocar. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.